America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da Milano. Mario Platero, sono di passaggio per qualche giorno in Italia, ma naturalmente continuo a seguire le cose americane, in particolare un discorso che ieri notte alle 3 del mattino, ora italiana, il presidente americano ha pronunciato davanti alla nazione. L'America rischia la crisi. Would you rather reduce deficits and interest rates by raising revenue from those who are not now paying their fair share? Or would you rather accept larger budget deficits, higher interest rates, and higher unemployment? And I think I know your answer. Credo che dopo una decina di appelli simili questo sarà l'ultimo per cercare l'unità nazionale e superare l'impasse. Sul debito i repubblicani tengono duro, la partita è politica, il braccio di ferro lo conoscete, a questo punto aspettiamo gli sviluppi concreti. Intanto oggi ci dedichiamo ad altro. Abbiamo un ospite molto particolare in studio a cui ho voluto dedicare questa overture. Rossini era naturalmente marchigiano, ma soprattutto in studio qui con me ai microfoni di America 24 abbiamo il maestro Arnaldo Pomodoro, che curò l'allestimento di Semiramide in una delle rappresentazioni all'Opera di Roma. Buongiorno maestro, intanto. Buongiorno. Allora, siamo qua con il maestro Pomodoro perché ha inaugurato proprio appena qualche giorno fa l'installazione di una sua scultura importante che rappresenta Pietrarubbia, e ispirata a Pietrarubbia, un piccolo borgo medievale vicino a Montefeltro, di nuovo nelle Marche, ai confini tra le Marche e la Romagna, quindi nel cuore della nostra Italia. Ebbene, questa scultura è stata installata a Storm King Art Center, uno dei più importanti musei di sculture all'aperto del mondo, certamente il più importante degli Stati Uniti. Ci sono i più importanti scultori del mondo che hanno il posto. Per la prima volta ci sarà anche uno scultore italiano, appunto Arnaldo Pomodoro. E la ragione, tra l'altro, di questa installazione molto romantica, molto sentimentale, molto emotiva, perché Herbert Kaiden, che è un filantropo e un ricercatore scientifico americano nel settore farmaceutico, che è stato un collezionista delle opere del maestro Pomodoro per 50 anni, si conoscono da oltre 50 anni, ha voluto che questa scultura, questa rappresentazione di Pietrarubbia, di questo piccolo borgo medievale delle Marche, trovasse una sua collocazione in questo parco, in questo Storm King, in questo parco di sculture, in onore della memoria di sua moglie Gabrielle, che di nuovo il maestro conosceva. Vediamo se riusciamo a descrivere questa scultura. È un omaggio ai luoghi dove sono nato, perché con questa scultura ho fatto una specie di statement, che è appunto quello di far capire dove sono nato, perché lavoro nel modo in cui lavoro. Cioè, la geologia di quel posto è tale per cui sembrano talvolta le rovine, che invece è la struttura delle montagne, eccetera, sembrano delle fondamenta primordiali che sono rimaste dopo alluvioni, terremoti. Questo luogo del Montefeltro si chiama Pietrarubbia ed è proprio il confine fra l'Emilia-Romagna e le Marche. Quei luoghi là hanno partorito davvero dei geni, non so, Raffaello, Bramante, ci sono tanti altri nomi. Pomodoro, diciamo. No, lasciamo perdere, per favore, lasciamo perdere. Si dirà, si vedrà. Io riconosco di, metto tutto il rigore possibile quando lavoro, riconosco di fare un lavoro oggi. Ho alcune certezze, ma sono poche, perché dentro di me c'è la volontà di fare, di interpretare, lasciare un segno che sia la scultura, che segni invece attraverso gli sviluppi tecnologici, scientifici, che segnano il nostro periodo, cioè la modernità, per cui anche la scultura deve essere reinterpretata. E allora vado a scavare nel profondo e vedo e visualizzo delle cose che sono molto vicine al passato. Io non riesco a lavorare senza il peso della memoria. E il peso della memoria in questa scultura, cerco di descriverla ai nostri ascoltatori, è una scultura bellissima, devo dire. Sono quattro blocchi rettangolari con un certo spessore e con questi movimenti nella scultura tipici dell'arte di Pomodoro, ancorati su una struttura di metallo, e possono aprirsi questi blocchi come un libro oppure richiudersi su se stessi. E nonostante il maestro ci racconti che vuole evitare una rappresentazione così, diciamo, facile di quella che può essere la realtà, guardandole in effetti si ha la percezione architettonica di quella che è stata l'ispirazione a questo borgo, vero maestro? Direi, perché queste colline sono proprio così teatrali, perché vicino c'è il mare. E quando è chiaro, soprattutto d'estate, alla mattina, si vedono allora i vari profili, ma uno davanti all'altro, come fossimo in una scena incredibile, e c'è una sensazione di spazio enorme che non vediamo di solito in Italia. Il nostro spazio è diverso da quello americano. Lo spazio americano è costante, non ti abbandona mai. In Italia lo spazio lo puoi trovare, ma lo devi cercare attraverso questi luoghi. L'America per lei, maestro, che cosa rappresenta? Io ho viaggiato molto negli Stati Uniti, alcuni viaggi li ho fatti da turista, altri invece sono viaggi che ho fatto per motivi di lavoro. Cosa mi piace dell'America è che quando si ha un'idea, quest'idea, se viene accettata perché è valida, allora gli americani ti sostengono. Da noi è diverso. Da noi è molto difficile poter lavorare. Ecco, noi abbiamo avuto proprio così, legate a queste sue considerazioni, alcuni dei nostri ascoltatori che ci hanno scritto che si sentono stretti in Italia, che vorrebbero venire in America, che vorrebbero venire a lavorare qui. A queste persone che hanno così questa idea di un sogno americano, cosa dice? Beh, dico che se sentono di fare quello, che facciano. Io indico ai giovani di muoversi, perché in Italia non c'è spazio. Qui lo spazio c'è, ma non è solo lo spazio. Se incontri e incontri sicuramente qualcuno facendo il proprio lavoro, una mostra, eccetera, incontri sempre o il gallerista o il collezionista. Così mi è accaduto. Io nel 59 ho fatto il mio primo viaggio negli Stati Uniti con una borsa di studio per la ricerca di nuovi materiali e sono venuto per 2 mesi. È stato per me la svolta definitiva. Erano gli anni in cui io sentivo proprio il bisogno di lasciare il mio paese, perché mi si stringeva tutto addosso, non sentivo che c'erano aperture negli Stati Uniti, non solo la volontà di aiutare la ricerca, il nuovo. Quando ho fatto il mio primo viaggio, per me c'è stato proprio, sono stato catapultato e ho visto al Museo d'Arte Moderna per la prima volta, ho visto Brancusi in una saletta con tante opere. È lì dove io sono esploso, perché Brancusi, che è il massimo scultore del Novecento per me, che ho preso lui e Klee, sono i miei padri putativi. Uno perché mi ha insegnato che il segno può essere anche puerile, ma se c'è l'idea è straordinario. Quindi il valore del segno, che per me è importantissimo nella mia scultura, e il valore invece del tutto tondo, dell'occupare lo spazio, delle sculture di Brancusi, soprattutto con la colonna senza fine, che vuole veramente raggiungere con un semplice trovata che è un modulo e ripeterlo all'infinito, ed è la colonna senza fine. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter, 24 America, scriveteci su Facebook, ed eccoci alla canzone del giorno. 11 ottobre esce il nuovo lavoro di High Places con il titolo Original Color. Il duo originario di Brooklyn nel mese di agosto sarà in tour per gli Stati Uniti per promuovere l'album dei High Places On Giving Up. Milano è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.